slick chick. She, a neat chick. But she's part of makes me tick. Mama, clickety click, a slick chick. The hot heels on for the very first time. What a sight. Purple lipstick for the very first time. Man oh man, it was a night. Everybody stopped on a dime to look. Even my heart, my heart got a shook. She's my clickety click, I'll stitch it. She's Miss Rhythm, she's Miss Rhyme. Oh man, she is mine. I said, oh, I got a stick chick. She's a neat chick. Well, she what I make me tick. Mama, clickety click, I'll stitch chick. Yeah, don't you know she's a stick? Mama, mama, I Radio Wombat, mercoledì 28 febbraio, ultimo giorno di febbraio del 2018. E sì, questo, anche se non sembrava, ma era un brano, era il primo brano della scaletta di oggi, in particolare il brano di Mike Patton, che si intitolava Car Radio AM. Perché? Perché i più furbetti forse già se lo immaginavano, ma per una serie di contingenze la puntata di questa settimana è dedicata ovviamente e chiaramente alla radio. Radio perché siamo emozionatissimi noi tutti Wombati e Wombatesse nel annunciarvi che Radio Wombat si sente finalmente in onde medie. Ancora si sente un po' malino, dobbiamo dircelo, perché comunque sia questo è il frutto di tanto lavoro e di tanta sperimentazione radioamatoriale, tutto rigorosamente DIY, autocostruito e autosperimentato e ovviamente autogestito, autofinanziato e tutto quello che vi viene in mente di auto. E quindi, insomma, ancora non siamo soddisfattissimi, ma grandi miglioramenti verranno. E insomma, però, intanto possiamo annunciarvi che potete ascoltarci volendo, visto che questa dovrebbe essere una radio vostra tanto quanto nostra, e potete ascoltarci anche sulle onde medie in AM, ovvero le vintage, super vintage onde medie, che forse alcuni di voi non sanno manco cosa sono. E parafrasando un caro amico, per spiegarvi cosa sono le onde medie, basta che pensiate a quando pigiate quel tasto sbagliato, che credete di aver sbagliato a pigiarlo perché sentite... Ecco, quelle sono le onde medie, perché in effetti sulle onde medie non ci sta quasi nessuno in Italia. Beh, e ora ci siamo noi, quindi potete ascoltarci. E quindi sfoderate tutte le vostre radioline della nonna, della mamma, del nonno, di chi vi pare e ascoltateci anche tramite questo meraviglioso mezzo di cui vogliamo riappropriarci. E in particolare. Vi, come tutte le altre trasmissioni hanno fatto e anch'io devo dare questo annuncio, sabato 3 e domenica 4 marzo, ovvero il prossimo fine settimana, festeggiamo tutto ciò con un lancio pubblico di Radio Wombat e delle sue onde mediocri cioè in due posti diversi della città di Firenze, ovvero al Next Emerson sabato 3 e alla Polveriera Spazio Comune domenica 4 marzo con We Want di Airways Back, 2 giorni su radio e frequenze liberate, se non fosse chiaro il concetto. Il programma ve lo leggo velocemente: sabato 3 marzo, vi ripeto, al Next Emerson, dalle 20 c'è una cena dove possiamo agilmente mangiare e alle 21 proiezione di Boconas, la storia di Radio Deseo delle Mujeres Creando de Bolivia, una storia molto interessante di un collettivo femminista anarchico boliviano che ha ospitato all'interno della Radio Deseo, radio comunitaria e autogestita, ha ospitato un gruppo di lavoratrici domestiche, così si definiscono, boliviane e tutto ciò ha avuto delle ripercussioni sia nel gruppo delle Mujeres Creando che insomma nella società boliviana. Un progetto molto interessante e questa è la proiezione che avverrà alle 21 di sabato 3 marzo al Next Emerson, come vi dicevo. E a seguire, attenzione, imperdibile, rarissimo e imperdibile, live dei CCC, CNC, NCN, gruppo storico dell'industrial, che ha fatto veramente la storia dell'industrial italiano, gruppo torinese nato dagli spazi occupati e beh, volendo anche sì, anche dalle onde torinesi. E ci propone un rafting sonoro nelle correnti elettromagnetiche. È uno spettacolo concerto, spettacolo penso che non gli piacerebbe. Beh, insomma, è un qualcosa che avverrà, sarà fisicamente ascoltabile e vedibile. Ma soprattutto ci chiedono i CCC di chiedere a voi di portarvi una radiolina che prenda anche le AM. E quindi mi raccomando, venite muniti di queste radioline, possibilmente con le pile, perché non è che abbiamo 1000 sciabatti a cui potete attaccarvi. Portatevi la vostra radiolina, anche perché vi servirà per il futuro, come già vi ho annunciato. A seguire, dopo la prima e dopo la performance dei CCC, ci saranno i nostri meravigliosi Bad Girl con le sue radiazioni spaziali e Natodate, vecchia e amata conoscenza di Radio Wombat, di tutti voi, con 8 Hz che ci delizia ogni settimana con i suoi suoni cattivi, con macchine, pedali e MP3. Questo per la serata di sabato. La seconda serata invece, anzi giornata perché è il pomeriggio, domenica 4 marzo alla Polveriera Spazio Comune, ci spostiamo tutti alla Polveriera per essenzialmente 2 appuntamenti che iniziano dalle 15. Il primo è un workshop un po' tecnico ma non troppo, con Amate Frequenze, il radioascolto spiegato a chiunque, ovvero come ascoltare la radio adesso che siamo nel 2018 e forse vi siete dimenticati come si fa, soprattutto sulle onde medie. E poi dibattiti e racconti, le nostre radio, storie di radio pirata e frequenze liberate, con la partecipazione di un sacco di amichetti di radio liberate e autogestite e sicuramente molto affini che hanno fatto un po' la nostra, sono state un po' la nostra ispirazione. Quindi c'è Radio Onda Rossa di Roma, Radio Blackout di Torino, Radio Onda d'Urto di Brescia, Radio Gramma di Genova e Radio Morgan, che non esiste più, ahimè, ma era una radio autogestita, pirata, attiva a Firenze nei primi anni 80, radio di movimento, di cui ci racconteranno le gesta. Questo è l'appuntamento, mi raccomando, tenetevi aggiornati, potete guardare tutti i dettagli, i link, gli approfondimenti sul sito di Radio Wombat, che vi ricordo essere wombat.noblogs.org. Questo è quanto, adesso è venuto il momento di iniziare con la nostra corposa scaletta che, siccome si tratta di radio, non poteva non cominciare dai Refused, ok? Ma prima vi dico, qui vi spiego un pochino quello che avete sentito all'inizio, che era Mike Patton con Car Radio AM, come vi dicevo, dall'album A Perfect Place del 2008, che è la colonna sonora dell'omonimo cortometraggio di Derek Scocchera, in cui Mike Patton sostanzialmente fa una colonna musica fatta di suoni, rumori e quant'altro, e ci sono ben due pezzi dedicati alla radio. Questo è quello AM, ma c'è anche quello FM, che però per una questione di spazio non vi ho messo, potete andarvelo a risentire se siete curiosi. Dicevo, non potevamo non partire da Refused, che fanno da colonna sonora di questa avventura radiofonica di Radio Wombat sulle AM, sulle onde medie, anche perché sulla colonna sonora del nostro spottino che accompagna questa due giorni, e fanno anche da ispirazione per il titolo della due giorni, We Want The Airways Back, perché esattamente questo dicono i Refused in Liberation Frequency da The Shape of Punk The Com del 1998, che poi questa canzone potrebbe anche essere chiamata la canzone del risveglio per molteplici motivi. Di questo album, The Shape of Punk to Come, abbiamo già parlato a Slick Chick nelle note, diversi mesi fa, direi. E nelle note pubblicate insieme al disco riguardo a questo pezzo, i Refused dicono: girate la manopola e aspettate. Mi sono persa il rigo. Girate la manopola e aspettate il suono liberatorio dell'estasi e della rivoluzione. Chi paga il giornalista e chi possiede le stazioni radio e chi gestisce l'etichetta discografica? Chi beneficia della depoliticizzazione dell'arte e nella musica e beneficia del suono pulito della prossima meraviglia pop? Chi gestisce il game show e chi paga gli stipendi ai giornalisti? Qui e ora vi offriamo un assaggio della nostra frequenza di liberazione, fornita da noi per la vostra soddisfazione ed eccitazione. Qui è Radio Clash, 33 rivoluzioni al minuto. Il nostro paradiso di pensieri e idee potrebbe essere anche il tuo, se solo ti lasciassi andare e girare la manopola e ascoltare, amare, cantare e pensare. It's coming through the air, for a We got more coming right now. There's more coming. We're gonna get a little sort of a session going here. A bit of a session that will feature the rhythm section. Questa era Liberation Frequency dei Refused, appunto, e direi che incarna perfettamente lo spirito di Radio Wombat, come è nata, come si sta evolvendo e come spero diventerà, e anche tutte le varie radio che sopravvivono alla giungla commerciale, sia in etere che non, e quindi insomma. Beh, direi che la dedico un po' a tutte le radio che sopravvivono, autogestite, fuori dalle logiche di commercio e del resto dello schifo che c'è nella radio e nel mondo in cui viviamo. Proseguendo, passiamo a un brano decisamente meno, come dire, non lo so, un po' meno underground, ecco, un pochino più conosciuto e decisamente più pop, però comunque ha un senso. Ed è Mexican Radio dei Wall of Voodoo, dall'album Call of the West del 1982. Perché ho scelto sto pezzo che vi resterà in testa per un bel po' e mi odierete tantissimo? Beh, ma l'ho scelto perché questa canzone parla delle stazioni radio messicane di confine. E, beh, è una cosa che non è che tutti conosciamo, soprattutto fuori dagli Stati Uniti, insomma, non è che se ne parli tantissimo. Ma queste erano delle radio che trasmettevano in onde medie ad un'altissima potenza con dei segnali che arrivavano benissimo negli Stati Uniti. E ogni tanto nel pezzo, in questo pezzo qua, in Mexican Radio, si sentono delle frasi in spagnolo, fateci caso, che sono state registrate proprio da una di queste radio. E ste radio si chiamavano Border Blaster, almeno questo è il nome che gli venne dato negli Stati Uniti. Ma esistono tuttora, quindi in realtà possiamo parlare abbastanza al presente. Sono radio broadcast che non hanno un'autorizzazione per trasmettere fuori dal proprio confine nazionale, invece decidono di trasmettere proprio al di là del confine, prendendo un po' come target uno specifico paese. Quindi è diverso dalla radio pirata che invece non ha alcuna licenza. Loro hanno la licenza, ma però trasmettono soltanto all'interno del proprio confine nazionale e invece decidono che vogliono trasmettere in un altro paese. Una cosa del genere, fra l'altro, avveniva anche in Europa prima della Seconda Guerra Mondiale, ad esempio in Inghilterra, oppure in Francia, le radio Périphérique, e sempre negli Stati Uniti, questa volta non subita ma attiva, perché dagli Stati Uniti si prendeva come target l'Est Europa, chissà come mai. Al confine tra Messico e Stati Uniti, questa cosa è iniziata negli anni 40 ed è andata avanti fin verso gli anni 70, almeno questo era un po' il clou della cosa, con grande disappunto delle radio americane, le radio statunitensi che si vedevano coprire il segnale. Poi nel 72 i due paesi, Messico e Stati Uniti, firmarono un patto dove regolamentarono frequenze e potenze trasmissive. Ma in realtà poi la cosa non è finita, questo fenomeno generalmente terminato per quanto riguarda l'FM resiste ancora nelle onde medie, generalmente più ignorate, dove si possono incontrare voci ben più divertenti e interessanti delle solite grandi major commerciali. E quindi di questo parla poi alla fine Mexican Radio dei Wall of Voodoo. Spero che i Public Enemy, almeno loro, vi abbiano fatto un po' smuovere, sballettare, perché non so voi dove siete, dove vi trovate, ma qua nella Wombat Caverna fa veramente freddissimo e quindi se non fosse per i Public Enemy e per gli altri prima di loro, peraltro, di questa scaletta abbastanza movimentata, probabilmente sarei rimasta congelata. Non riesco anche a parlare in rima oggi, visto? Public Enemy, How to Kill a Radio Consultant, all'album Apocalypse 91, The Enemy Strikes Black. Qui i Public Enemy campionano, non so se ci avete fatto caso, forse era un po' difficile riconoscerlo, James Brown con Code Sweet. Tra l'altro i Public Enemy, in quanto a radio, sapevano abbastanza di cosa parlavano, perché Chuck D, uno dei loro fondatori, era un DJ e ha lavorato diverso tempo in radio, insomma, quindi era abbastanza fondamentale come mezzo per loro. Ma andiamo avanti, perché dobbiamo parlare velocemente, neanche troppo, insomma, un po' ci dobbiamo soffermare, di Capital Radio. Beh, era impossibile non arrivarci, e Clash con Capital Radio, che è il primo EP del gruppo, fra l'altro, pubblicato il 9 aprile del 1977. E questo EP fu, in realtà era strano, perché fu regalato ai lettori che inviarono il coupon di sconto stampato dal New Musical Express, che era una rivista di musica, e insieme dovevano allegare l'adesivo rosso trovato con il loro primo album, The Clash, sempre del 77. Quindi se riuscivi a fare sta combo, ti aggiudicavi questo EP, Capital Radio. Il testo del brano che ci andiamo ad ascoltare, tratto appunto da questo EP, che è Capital Radio One, il testo è un attacco diretto, abbastanza esplicito direi, alla musica trasmessa nelle radio di Londra, insomma le radio britanniche in quei tempi. In maggioranza venivano trasmesse canzoni commerciali ed era difficilissimo che passasse il punk. Mica come ora, che proprio sguazziamo in un mare di meraviglie, no? Cioè, al tempo era più difficile. Ecco, il pezzo tra l'altro conclude con la parodia di un jingle della radio, delle radio pubbliche, In Tune with London, ovvero In Sintonia con Londra, che dai Clash viene cambiato con In Tune with Nothing, ovvero In Sintonia col Niente, che probabilmente rendeva molto meglio l'idea della radio pubblica britannica degli anni 70. I Clash parlano in questo brano di propaganda alla Goebbels. In effetti era abbastanza chiaro cosa stava succedendo, visto che una rivoluzione culturale di fatto era in atto e le radio ordinarie si rifiutavano categoricamente di dargli voce e cercavano di forzare un ascolto addomesticato di musica innocua. Le radio ordinarie, appunto, perché poi c'erano anche le radio pirata, ma quella è tutta un'altra storia di cui peraltro parleremo dopo. Quindi a questo punto ascoltiamocelo, direi. Capital Radio One dei Clash. Sulla porta, continua a arrivare ad aprire. Stai attento, stai giù. Tanto arrivando gli avvocati, aspettate 5 minuti, sono qui per strada. Gli unici commenti sono di aprite e cose di questo genere. Alice? Non so chi sia Alberto o comunque. No, non sono Matteo, senti, c'è la polizia alla porta. Sono entrati, siamo con le mani alzate. Ecco, se questo appanto non ha fatto il microfono. Sappiamo le mani in alto. And then we use that word in each upon the mind. questi erano gli Stiff Little Fingers. You can stay crap. Scusate, You Can Say Crap on the Radio, dall'album Nobody's Heroes del 1980. E, censura alla radio, di questo si parla, è un povero DJ di una radio locale che viene messo in croce. D'altronde mica vogliamo toccare la libertà di parola, solo te lo diciamo noi cosa puoi o non puoi dire ai microfoni. E tra l'altro direi abbastanza a puntino, a pennello, ci stava la clip che avete sentito prima degli Stiff Little Fingers, che era la famosa, direi purtroppo famigerata anche, incursione della polizia, la prima chiusura di Radio Alice del 12 marzo del 1977, poi purtroppo ne sono seguite altre, però questa è andata proprio in diretta ed è un po' rimasta nelle cronache. Chi di noi se lo ricorda, chi di noi c'era pure, viene in mente subito, istintivamente, la chiusura e lo sgombero insomma l'incursione della polizia dentro la sede di Radio Gap, chiamiamola sede, durante l'incursione alla Diaz a Genova durante il G8 del 2001, perché beh, direi che le parole erano abbastanza simili e il tremore nella voce uguale. Purtroppo poi alla Diaz è andata anche un po' peggio, volendo, beh, ma insomma gli anni erano anche diversi. Quindi passiamo dagli Stiff Little Fingers, e che tra l'altro loro insomma erano nel Nord Irlanda, quindi di censura un po' sapevano di cosa se ne parlava, cioè, insomma ne sapevano qualcosa. Da lì passiamo a i Rush, mi tocca, cioè pensavo di non metterli mai, i Rush, proprio che non mi dovesse mai toccare nella vita, ma sì, li ho dovuti mettere, in particolare The Spirit of Radio, e d'altra parte la scaletta sulla radio lo impone. L'album è Permanent Waves del 1980. E dice così: impalpabili onde radio frusciano con la vita, sfolgoranti antenne si inviperiscono con carica energetica, un feedback emotivo su di una perpetua lunghezza d'onda, sostenendo un presente al di là del prezzo, quasi gratuito. Quasi gratuito perché anche i Rush, perfino i Rush direi, si sono accorti di come la radio sia diventata un business e un semplice mezzo per fare soldi. Cosa che ahimè si è protratta fino a adesso, e quindi eravamo nel 1980, ma le cose non sono assolutamente cambiate, anzi direi. The Spirit of Radio, Rush. used to be a wall. Quante pirole, pure il reggae finale, ma andiamo avanti, va che sarà meglio. George Clinton con Loopzilla, pezzone, no? L'album è Computer Games del 1982 e si fa prima a dire chi non ha campionato George Clinton in questo brano. Ci sono tutti, in primis i Four Tops, ma anche tantissimi altri del soul, funky, R&B dell'epoca. Martin De Vandellas, The Marvelettes, Funkadelic, Parliament, boh, insomma un po' tutti veramente. La storia di questo pezzo è che Africa Bambaataa e The Soul Sonic Force in quel periodo avevano fatto uscire un pezzo che si chiamava Planet Rock, che ripeteva all'infinito We gotta rock it, don't stop it. Forse qualcuno lo ricorderà. George Clinton allora immagina una stazione radio che trasmette la stessa canzone in loop per sempre. Un incubo praticamente. La versione originale di questo pezzo di Loopzilla dura 13 minuti, ma in realtà avrei dovuto rinunciare tipo a mezza scaletta e quindi vi beccherete la versione accorciata, fatevela bastare direi, eh? Oh, E adesso dobbiamo arrivare a Eramons. Toccava. Proprio vi ho messo tutto, direi. Cioè, non mi potete dire niente. Cioè, mancava veramente Finardi, che non vi azzardate a pensare che lo metterei. Ramones, do you remember Rock and Roll Radio? Anche se in realtà ce n'erano diverse dei Ramones che potevano entrare in questa scaletta. L'album in questo caso è End of the Century del 1980 e parlando giusto al volo dell'album, il produttore qui è Phil Spector, il famigerato, che ha portato il suono dei Ramones verso melodie decisamente, come dire, più orecchiabili per poter ottenere poi un maggior successo commerciale. Si sente bestia. Ora, i Ramones non erano così intelligenti, secondo me, da sapere bene cosa stavano dicendo, e quindi probabilmente il senso del brano qui è più genericamente un nostalgico tributo a quella musica degli anni 60-70 che li ha influenzati, come Jerry Lee Lewis, John Lennon, i T-Rex, gli Animals, eccetera. Però, al di là del pezzo in sé, loro malgrado ci danno lo spunto per parlare delle radio pirata nella storia del rock and roll in Inghilterra, almeno in Inghilterra. Poi ci sarebbe da aprire un capitolo enorme sul resto del mondo, ma concentriamoci sull'Inghilterra. Evidentemente non solo i Clash si erano accorti che la BBC aveva una politica un tantino oscurantista nei confronti delle culture musicali di quegli anni. Nel 1964, quindi un bel po' prima dei Clash in realtà, nasce Radio Caroline, che è la prima emittente radiofonica britannica pirata. E nasce su una nave, perché c'era un trucco. Nelle acque internazionali l'unica legge a cui si era sottoposti era quella dello stato in cui la nave veniva registrata. E quindi sostanzialmente se te attraccavi in acque internazionali, lo stato britannico non ti poteva di niente. E infatti, nonostante le proteste del governo, lo stato inglese non era dotato di una legislazione che potesse impedire a Radio Caroline di trasmettere. Quindi, senza nessun lancio pubblicitario, perché Radio Caroline non era una radio commerciale, non aveva sponsor assolutamente, e la nuovissima Radio Caroline ottenne un grandissimo successo. Dopo pochi mesi dall'inizio delle trasmissioni superava i 7 milioni di ascoltatori. Siamo nel 64, appunto, ed è vero che la radio era il principale mezzo di comunicazione, ma insomma, non era assolutamente robetta. La musica trasmessa era quella della scena del momento, la scena del momento che a noi adesso sembra ovvia, ma al tempo non lo era assolutamente, ed era un terremoto in Inghilterra, ovvero i Beatles, i Rolling Stones, i Kings, gli Who e tantissimi altri ancora meno mainstream, almeno mainstream per i concetti da adesso, ed era trasmessa ininterrottamente nelle versioni originali violando il copyright. Cioè, tra le varie cose, la BBC aveva una serie di paletti che, oltre a decidere, cioè sostanzialmente c'era una programmazione di musica classica e ben poco era lo spazio riservato a qualcosa d'altro, ma in realtà c'erano anche tantissime altre leggi cavilli meravigliosi, tipo ad esempio che le versioni originali internazionali non venivano trasmesse se non rieseguite da un'orchestra. Cioè, quindi c'era l'orchestra della BBC che rieseguiva alcuni brani, che ne so, americani o francesi, cioè, il che era abbastanza ridicolo. E appunto Quello che era da notare è che tra le varie cose Radio Caroline trasmetteva le versioni originali violando assolutamente il copyright, se ne fotteva allegramente e orgogliosamente. Le band, tra l'altro, i gruppi coinvolti non è che se la prendessero tanto sostanzialmente perché poi il ritorno pubblicitario era enorme, perché finalmente la loro musica arrivava alla gente, cosa che insomma tutti capirebbero. E tutti capiscono, se non quelli che in maniera completamente assurda continuano a difendere il diritto d'autore e il copyright. In poco tempo, sull'esempio di Caroline, nacquero tantissime altre radio pirata, tra cui la più famosa fu poi Radio London. E rivoluzionando poi in realtà le regole della radiofonia, quelle che almeno erano le regole fino a quel momento. Nel 67, quindi 3 anni dopo la nascita di Radio Caroline, il governo inglese varò una durissima legge che puniva molto severamente le radio pirata. Quindi poi questo di fatto fu abbastanza decisivo, tutte le stazioni chiusero, tranne Radio Caroline, che decise di sfidare il governo continuando a trasmettere. E la notte dell'entrata in vigore della legge, pare da una stima un po' approssimativa, però pare che Radio Caroline, che a quel punto era l'unica radio pirata sull'etere, raggiunse 20 milioni di ascoltatori in un'unica notte. Poi, però, di fatto, questa cosa, al di là delle battaglie legali e della repressione che seguì, l'impatto poi sulla cultura e anche sulla radio fu talmente grande che perfino la BBC, di fronte a tutte le proteste che ne conseguirono del pubblico, lanciò una nuova stazione, ovvero Radio 1, Radio 1, dedicata alla musica pop, chiamiamola così, sul modello delle radio pirata. Fra l'altro, molti DJ pirati, tra cui John Peel, famosissimo, e Tony Blackburn, furono poi assunti da questo nuovo canale della rete pubblica. E diciamo che da questo momento le vicende di Radio Caroline non finiscono, ma diventano un po' avventurose ed alterne. E Radio Caroline ha continuato a trasmettere in acque internazionali fino al 91, fino al 1991, dalla nave MV Ross Revenge. E a tuttora continua a trasmettere, trasmette però dal web in streaming. Nel 2017, attenzione, praticamente 40 anni dopo, ha ottenuto per la prima volta un'autorizzazione ufficiale a trasmettere in onde medie, in AM, e qui faccio ammiccamento, beh, tutta la trasmissione che ve lo dico, quindi insomma a buon intenditore poche parole, e quindi ottenne questa autorizzazione come radio comunitaria. E quindi in occasione di questa finalmente un po' tardiva, dobbiamo dire, concessione, è stata organizzata una trasmissione celebrativa di 3 giorni ad agosto, l'11, 12, 13 agosto del 2017, quindi pochissimo tempo fa, di nuovo e finalmente in diretta dalla Ross Revenge, quindi la nave ristrutturata per l'occasione e attraccata nel fiume Blackwater nell'Essex. Ora, io vi ho un po' fatto un quadro, ma veramente molto sommario, di quello che è il mondo delle radio pirata. Ci sarebbe da dirne veramente all'infinito. E vi consiglio, se non ne sapete, ma ne siete incuriositi, il meraviglioso libro di Andrea Borgnino, Radio Pirata, Rock, Libertà, Trasgressione e Nuovi Linguaggi Radiofonici, uscito nel 2009 per Persiana Editore, che comunque si trova abbondantemente ancora. E beh, a questo punto però ci dobbiamo ass assolutamente sentire i Ramones con Do You Remember Rock and Roll? This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Yeah. Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Listen to the Radio, Pirate Radio, The Toasters, e l'album era Enemy on the System del 2002. E se non aveste capito quello che vi ho raccontato prima, i Toasters infatti vi rispiegano tutto quanto a partire da Radio Caroline. Ora arriviamo invece alle frequenze, quelle proprio più nerd e più tecnicose. Perché ci arriviamo con i Kraftwerk e l'album in particolare che, da cui prendiamo il brano di questa scaletta è Radioactivity del 1975 ed è il quinto album della discografia dei Kraftwerk, il primo fra l'altro prodotto in proprio e pubblicato in due versioni, una internazionale con i titoli in inglese e una destinata al mercato invece solo nazionale con i titoli in tedesco. La copertina dell'album, forse qualcuno la ricorderà, mostra una radio degli anni 30 e poi invece all'interno dell'album c'è un disegno di un'antenna che sta emettendo onde elettromagnetiche. Il brano omonimo, cioè quindi il brano che dà poi il titolo all'album, ovvero Radioactivity, rende omaggio a Marie Curie, della cui vita ha parlato fra l'altro Coccolé a Silicio qui su Radio Wombat qualche mese fa. Vi invito a andarvi a ricercare il podcast. Ma non sarà questo il brano che vi faccio ascoltare. Io ho avuto veramente difficoltà nello scegliere un pezzo all'interno di questo disco perché erano praticamente tutti perfetti per questa scaletta. Da Radioland, Antenna, Radio Stars, Transistor, per finire poi con il delizioso gioco di parole Home Sweet Home. Meravigliosi. Tra gli strumenti usati in questo disco compare pure un oscilloscopio, che è croce, delizia e pane quotidiano per chi ama le onde radio. Non ho ben capito come fanno a farlo suonare, ma d'altronde compare, quindi in qualche modo ci sarà. Alla fine, insomma, ho scelto Airways, onde radio per l'appunto. Thank you. così, è così, finisce così, brutale. E siccome vi state forse prendendo troppo bene, io non vorrei che vi prendeste troppo bene, e allora adesso mo vi beccate i Joy Division. E sì, è andata così. Dance, dance, dance to the radio, dove la radio in questo caso è quella cosa che ascolti passivamente, a cui adeguarsi, da cui prendere il ritmo della locura collettiva. Presente? Quello che mi sbalordisce sempre dei Joy Division è il modo in cui parole e musica si contraddicono così, in una maniera così crudele, e quel modo che aveva Ian Curtis di trasformare gli spasmi in danza e viceversa. E questa è Transmission. Proseguiamo, siamo quasi alla fine di questa maratona dedicata alla radio, in cui veramente avrei potuto mettere altri 7.000 pezzi, ma mi sono dovuta censurare, c'erano i selector, c'era veramente di tutto, mi è toccato rinunciare a varie cose, System of a Down, ma di tutto ci possiamo infilare, ma alla fine io il tempo è quello che è, e la mia trasmissione, la mia scatoletta non è infinita, e quindi questo vi è toccato. Magari chissà, una volta ne faremo un sequel. Quindi gli ultimi due pezzi in scaletta, il penultimo è degli Electric Light Orchestra, glielo altrimenti detti, con Mr. Radio. L'album è The Electric Light Orchestra, l'omonimo del 1971. E questa canzone, lo sentirete, è stata scritta con uno stile un po' retro anni 20 e parla di un uomo che è stato lasciato dalla moglie e ora la sua unica compagnia è la radio. Inizia con un campionamento di una sinfonia di Mozart e in mezzo al brano ci sono dei pezzi registrati in backmasking, ovvero dei piccoli reverse, dei brani mandati al contrario. Quelli che si diceva, non so se vi ricordate, fantastica polemica degli anni 80-90, che si diceva che contenessero terribili versi satanici e invocazioni al demonio. E vabbè, qui dice soltanto Hello Mr. Radio all'incontrario e quindi non lo so se poi Satana si sente chiamato in causa. E poi ci sono anche delle note sempre di Mozart mandate in reverse. Chissà quanti demoni stiamo invocando qui dal Radio Wombat. Hello, Mr. Ray. ecco, Electric Light Orchestra, Mr. Radio. Siamo arrivati alla fine di questa scaletta dedicata alla radio di Slick Chick e vi lascio in eccellenti mani, direi, perché vi lascio nelle mani degli Shellac con The End of Radio, tratto da Excellent Italian Greyhound del 2007. E credo che qui gli Shellac immaginino l'ultima trasmissione radio post-apocalisse. E basterebbe questa frase a dipingere quel che resta del mondo. L'ultimo watt lascia il trasmettitore e gira il globo alla ricerca di un ascoltatore. Con questo e con i meravigliosi Shellac vi saluto e vi do appuntamento a mercoledì prossimo, ma ancor prima al prossimo fine settimana, ovvero sabato 3 marzo e domenica 4 marzo, come vi dicevo, a We Want the Airways Back, la due giorni su radio e frequenze liberate organizzata da Radio Wombat, in cui vi aspettiamo numerosissimi e numerosissime. Quindi a tra poco, ciao ciao! This thing on. Can you hear me now? Are we going? This thing on. Mrs. America, and all the ships at sea, anyone within the sound of my voice, I've got 50,000 watts of power. Electricity. Can you hear me now? Out on Route 128, in the dark and lonely. I got my radio on. Can you hear me now? Can you hear me now? welcome to my top ten. I'd like to thank our sponsor. But we haven't got a sponsor. Not if you were the last man on earth. She was prepared to prove it. This one goes out to a special girl. There is no special girl! It's the end of radio! The last announcer plays the last record. The last what? Leaves the transmitter. Circles the globe in search of a listener. Can you hear me now? Broadcasting if there's no one there to receive. It's the end of radio. As we come to the close of our broadcast day. Hey, hey!